Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Sento che non posso finire senza dire una parola ai grandi assenti oggi, ai protagonisti assenti, agli uomini e alle donne mafiosi. Per favore, cambiate di vita, convertitevi. E oggi cominciamo così, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, visto che è stata una notizia che è arrivata più in fondo alla giornata, ma che ha avuto un certo clamore, questo dell'incontro del Papa con le famiglie delle vittime della mafia oggi. È stato un incontro un po' inconsueto, ma questo Papa abbiamo già visto tante volte, insomma, che segna una strada diversa, e poi ne parleremo. Però tra le frasi anche di una certa rilevanza di oggi c'è per esempio quella del ministro del lavoro Poletti, tanto per tirarci un po' su, no? Che ha detto: nel 2014 avremo ancora problemi acutissimi di disoccupazione, la crisi non ha ancora scaricato tutti i suoi effetti, e per vedere poi degli effetti positivi bisognerà aspettare ancora 3-4 anni dopo le politiche che stiamo attuando. Cercate di avere pazienza. E poi c'è Grillo, stasera sarà da Mentana a Bersaglio Mobile più tardi, e registrato. E cosa ha detto sul referendum della Crimea? C'è stato un referendum sull'indipendenza della Crimea con 150 ispettori dell'ONU che hanno visionato, vi ha partecipato l'85% degli aventi diritto, il 95% ha detto sì, quindi io lo rispetto. E a questo proposito c'è anche il referendum online per l'indipendenza del Veneto, risultati arrivati poco fa. Secondo questi risultati avrebbero votato per l'indipendenza online, cosa che non è vincolata, insomma, dall'idea di come la pensino, 2.036.000 persone nel corpo elettorale, quindi sia l'indipendenza per l'89% di coloro che hanno votato. Bene, questo tanto per dirvi alcune cose, alcune frasi, alcune vicende di oggi, ma adesso ve le sintetizzo con i titoli. Vertice a Bruxelles, nessuna sudditanza in Europa, dice Renzi dopo il Consiglio europeo, ma Squinzi sfata il clima idilliaco con la Germania. L'inchiesta su infrastrutture lombarde, il GIP accusa i vertici della regione Lombardia sapevano della diffusa illegalità nel colosso regionale degli appalti. Vittime della mafia, il Papa incontra i familiari in chiesa a Roma, più di 900 persone, e Bergoglio dice: mafiosi, convertitevi. Turchia, decine le condanne da tutto il mondo dopo il blocco di Twitter deciso dal governo turco. Calcio quarti di Europa League, il 3 aprile la Juventus in trasferta a Lione, e per Galliani due weekend di ritiro col Milan. Partiamo quindi dalla giornata conclusiva, quella di oggi, del primo Consiglio europeo a cui ha partecipato Matteo Renzi. Sentiamo un passaggio della conferenza stampa che ha tenuto dopo il Consiglio. Fare del semestre l'occasione di una grande scommessa sull'Europa. Per farlo, naturalmente, vale il principio che conoscete, che sapete: l'Italia può arrivare a questo appuntamento avendo molto da dire e da dare soltanto se è nelle condizioni di svolgere nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, un gigantesco lavoro sulle riforme, che è quello che conoscete. Poi capiremo meglio com'è andata la giornata del Presidente del Consiglio collegandoci direttamente con Bruxelles tra poco. Su Renzi e il rapporto con la Germania interviene il Presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, che dice: devo sfatare il clima idilliaco descritto per l'incontro di lunedì tra Merkel e Renzi. Io, dice Squinzi, ero alla cena, lei molto austera nei nostri confronti, non è che ci abbia accolto a baci e abbracci, ha detto che non possiamo derogare dalle regole. Così dice Squinzi, che su Renzi sospende al momento il giudizio, non si possono dare voti, credo sia ancora a casa che si sta preparando alle interrogazioni. Quando comincerà a rispondere alle interrogazioni, dice Squinzi, formeremo i nostri giudizi. E al Consiglio europeo di Bruxelles è stato anche firmato l'accordo di associazione dell'Unione europea con l'Ucraina, e anche quello per la revisione della direttiva risparmi, che consente lo scambio automatico di informazioni fiscali in chiave antievasione. Il vertice europeo di Bruxelles è riuscito a far decollare la direttiva contro l'evasione fiscale incagliata da 6 anni. Il primo ministro del Lussemburgo, Xavier Bettel, e l'austriaco Bernard Faymann hanno annunciato che non si opporranno più alla nuova normativa europea sulla tassazione del risparmio, che imporrà severi limiti al segreto bancario e la possibilità di mantenere paradisi fiscali nell'Unione. La nuova direttiva, volta a combattere elusione ed evasione fiscale, era bloccata dal 2008 dal doppio veto lussemburghese e austriaco, ovvero dai due paesi europei che avevano tradizionalmente norme molto forti di tutela del segreto bancario. bancario. La direttiva entrerà in vigore in concomitanza con un accordo con altri 5 paesi terzi: Svizzera, Liechtenstein, Andorra, Monaco e San Marino. Sul fronte fiscale un passo avanti dopo l'accordo raggiunto tra le istituzioni europee anche sull'unione bancaria, con l'accorciamento dei tempi nella costituzione del fondo da 55 miliardi per il salvataggio di banche in difficoltà, mentre sull'ambiente è slittato l'accordo sulle strategie per il contenimento delle emissioni entro il 2030. Enrico Brivio, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. E torniamo sulle questioni prettamente italiane. Oggi hanno fatto discutere le parole di Mauro Moretti, amministratore delegato dell'FS, sul possibile taglio degli stipendi ai manager pubblici. Ma non c'è dubbio. L'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato Mauro Moretti replica così a chi gli chiede se, nel caso venissero tagliati gli stipendi dei manager di aziende pubbliche, valuterebbe di andarsene. Prendo 850.000 euro l'anno, spiega il mio omologo tedesco, ne prende 3,5 volte tanto. È evidente, aggiunge, che sul mercato bisogna anche avere la possibilità di retribuire, non dico alla tedesca e nemmeno all'italiana, un minimo per poter far sì che i manager bravi rimangano. Lo Stato poi può fare quello che desidera. Sconterà che una buona parte di manager vada via. Lo deve mettere in conto. La valutazione di Moretti viene girata al Presidente del Consiglio durante la conferenza stampa di Bruxelles. Renzi conferma l'intervento sugli stipendi dei dirigenti pubblici e aggiunge: «Sono convinto che quando Moretti vedrà la ratio sarà d'accordo con me». Di lui mi fido, replicherà nel tardo pomeriggio lo stesso Moretti, a polemica politica e sui social network ancora viva e calda. Simone Spezia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E infatti vedo molti vostri messaggi anche sulla pagina Facebook di Effettonote relativi a questa vicenda dello stipendio di Moretti. Passiamo alla politica. Problemi ci sono in Forza Italia per la successione a Silvio Berlusconi, mentre Grillo esulta perché i sondaggi lo danno in sorpasso su Forza Italia. Non si scioglie l'enigma in Forza Italia sul successore di Silvio Berlusconi nel Partito Azzurro. La fidanzata dell'ex premier Francesca Pascale lancia la candidatura di Marina dopo il no di Pier Silvio e prospetta un futuro a tinte fosche. Spero che tocchi a lei, altrimenti il partito finisce. Interviene anche Mara Carfagna. Non vedrei male la candidatura di uno dei figli di Berlusconi, ma non chiedetemi quale, perché non entro in quelle che sono logiche ed equilibri familiari molto delicati. I sondaggi danno Forza Italia dietro al Movimento 5 Stelle. Esulta Beppe Grillo, che già parla di vittoria il 25 maggio. Non c'è più niente da sfasciare, diamo l'estrema unzione, questo sì, con un'economia che non si capisce, hanno 7-8 mesi che parlano di IMU, ICI, ITU, ICU, LICU, HUC, IUC, IUC sembra un singulto di un ubriaco. Polemiche poi per la querelle sul nome di Matteo Renzi nel simbolo del PD. Il premier interviene subito, il candidato dei democratici è Schulz. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E a proposito di Grillo, Grillo ha detto anche, registrato appunto sulla 7 che andrà stasera, ha detto a proposito di legge elettorale, Renzi resuscita un morto come Berlusconi, poi fa una legge elettorale con il morto e con Verdini che è un massone, in tre si mettono in una stanza e fanno la legge elettorale, dice che noi non siamo democratici. E anche l'immigrazione torna a essere un tema della campagna elettorale. L'assessore regionale lombardo alla sicurezza con delega all'immigrazione, Simona Bordonali, ha detto che in Lombardia non c'è posto per altri immigrati, ricordando che i progetti di accoglienza costeranno alla regione nel 2014 oltre 9 milioni di euro. Protesta la Lega a Pavia e Milano contro la scelta di ospitare alcuni profughi in un hotel di lusso. Sull'immigrazione interviene anche il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, che dice: spendiamo 300.000 euro al giorno per andare con le nostre navi quasi fino alle sponde africane per soccorrere i migranti. Quindi bisognerà capire insomma come affrontare questa situazione. Per ora sono parole. Rimaniamo in Lombardia con i nuovi particolari sull'inchiesta che ha portato in carcere i vertici di Infrastrutture Lombarde. Del giro di appalti truccati in regione Lombardia l'allora governatore Formigoni sapeva, e quanto si evince dall'ordinanza del GIP che ieri ha portato all'arresto, tra gli altri, del direttore generale di Infrastrutture Lombarde Antonio Rognoni. Da alcune email scambiate nel 2008 tra Rognoni e l'avvocato Carmen Leo, ora agli arresti domiciliari, si denota, si legge nell'ordinanza, la piena consapevolezza di tutte le parti in causa di agire in un ambito di diffusa illegalità, compresi i vertici della regione Lombardia. Anche il faccendiere Pierangelo Daccò, già condannato per il il crack del San Raffaele, rinviato a giudizio insieme a Formigoni per il caso Maugeri, sempre secondo il giudice avrebbe avuto un certo ascendente su Infrastrutture Lombarde. Sarebbero 25 gli appalti che Rognoni e i suoi avrebbero pilotato per garantire profitti illeciti ad una serie di professionisti per un giro di affari di circa 224 milioni di euro. Il governatore Maroni promette di nominare i nuovi vertici di Infrastrutture Lombarde nelle prossime ore. La priorità adesso è evitare che le operazioni che Infrastrutture Lombarde faceva su Expo fermino i lavori di Expo. Visto il rischio c'è, io voglio scongiurarlo. Non c'è alcun coinvolgimento di Expo, ha garantito il commissario unico Giuseppe Sala. Quanto è accaduto, ha spiegato, è che un nostro fornitore di servizi ha fatto degli illeciti. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi Papa Francesco, dicevamo sin dall'inizio, che è arrivato poco dopo le 17 nella parrocchia romana di San Gregorio VII, dove ha incontrato i parenti delle vittime della mafia. Un avvenimento, vi dicevo, piuttosto inconsueto e che conferma questa volontà di cambiamento del Papa. Ma anche di questo parleremo più tardi. Adesso spostiamoci sulla pagina estera con la Turchia. C'è stata una condanna internazionale sulla decisione del governo di bloccare Twitter. La Turchia ha bloccato l'accesso a Twitter giovedì sera, poche ore dopo l'ennesima minaccia del primo ministro turco Recep Tayyip Erdogan di vietare l'uso del social network, che ha pubblicato alcune intercettazioni telefoniche che lo coinvolgono direttamente mentre parla con il figlio nel più grave scandalo di corruzione della Turchia moderna. L'autorità delle telecomunicazioni turca, cui una recente legge sul controllo di internet, definita legge bavaglio dall'opposizione, ha dato poteri straordinari, ha bloccato l'accesso a Twitter. Per il commissario europeo per le nuove tecnologie, Neelie Kroes, si tratta di censura. Il blocco di Twitter in Turchia, ha scritto in un tweet, è senza fondamento. Ma il problema è che Erdogan sta cercando di far passare il messaggio che ci sia un complotto internazionale contro la Turchia, in vista delle elezioni comunali di marzo. Se il voto di marzo fosse negativo per Erdogan, questo insuccesso potrebbe costringerlo a rivedere la sua candidatura alle presidenziali previste ad agosto, dopo aver dovuto rinunciare alla modifica costituzionale del presidenzialismo a causa delle proteste di Gezi Park. Allora per Erdogan sarebbe l'inizio di un lento declino. Vittorio Darolda, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E parlando invece, spostandoci verso la crisi ucraina, il presidente russo Vladimir Putin ha promulgato il trattato di annessione della Crimea e di Sebastopoli, ratificato oggi dal Senato russo e ieri dalla Duma, dalla Camera Bassa. Il trattato entrerà in vigore domani con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Anche loro hanno la Gazzetta Ufficiale. Diverse centinaia di sostenitori dei Fratelli Musulmani, parliamo adesso di Egitto, sono scesi oggi nelle piazze delle principali città egiziane. Scontri sono segnalati in alcune località, in particolare nella capitale Italia, il Cairo. Al Cairo da registrare anche un attentato rivendicato da un gruppo di Al-Qaeda che ha fatto esplodere un deposito di bombole del gas. In chiusura il calcio, parliamo dei quarti di finale di Champions League e di Europa League. Una ex regina di Francia per la Juventus, sovrana d'Italia in carica e ultima delle sopravvissute italiane. Non sono più gli anni in cui il Lione stradominava il suo campionato e provava ad attentare, senza molto successo, alla Champions League. Ma il fascino resiste e diciamo che alla signora poteva pure andare meglio nel sorteggio. Ma non è il caso di sottilizzare per chi la Coppa la vuole vincere, come ben sappiamo, in casa sua, dato che la finale è il 14 maggio a Torino. Andata al Delle Alpi, ritorno allo Juventus Stadium. Quanto al piano di sopra, quello con vista su Lisbona, teatro della finale di Champions del 24, si è formato un tabellone quasi tennistico, una grande e un outsider. Facile individuare le favorite nel derby Barcellona-Atletico Madrid, in Manchester United-Bayern e in Real Madrid-Borussia. L'incrocio con più fascino è quello tra le due che possono davvero avere ambizioni serie di scarabocchiare il disegno scontato di una finale Real-Bayern. Paris Saint-Germain contro Chelsea, Ibrahimovic contro Mourinho. Questa è la partita. Carlo Genta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per le Champions le partite d'andata si giocheranno il 1 e il 2 aprile, il ritorno l'8 e il 9 aprile. Per l'Europa League andata giovedì 3 aprile, ritorno il 10. E per quanto riguarda il Milan, Adriano Galliani resterà in ritiro con la squadra per tutta la durata della doppia trasferta a Roma e Firenze per le sfide di domenica e mercoledì contro Lazio e Fiorentina. Questo è quanto emerge dal faccia a faccia fra lo stesso Galliani e Clarence Seedorf, un incontro normale programmato, così spiegano dal Milan, che è durato questo incontro circa un'ora e mezza. Bene, è durato abbastanza questo riassunto della giornata. Adesso c'è la viabilità, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte per voi, per i vostri commenti, oppure per i messaggi il 349-238-6666, a seconda dei temi che vi stanno più a cuore, naturalmente quelli della giornata. Tra poco. Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano, ecco subito di nuovo con voi sempre anche la pagina Facebook di Effetto Notte, le notizie che adesso vi riassumo e tra poco ci collegheremo direttamente con Bruxelles. Renzi dice grandi riforme con l'Europa, né conflitti né sudditanza, stop a Cottarelli, commissario straordinario sulla spending review a proposito delle pensioni. L'inchiesta su infrastrutture lombarde, il GIP accusa i vertici della regione Lombardia, sapevano della diffusa illegalità nel colosso regionale degli appalti. Vittime della mafia, il Papa le ha incontrati, i familiari in chiesa a Roma, più di 900 persone, e Bergoglio dice mafiosi convertitevi. Turchia, decine le condanne da tutto il mondo dopo il blocco di Twitter deciso dal governo turco. E per il calcio, quarti di Europa League, il 3 aprile la Juventus in trasferta a Lione, e per Galliani due fine settimana di ritiro col Milan. E parliamo di Europa. Europa 24 notte. E infatti c'è il collegamento diretto con Bruxelles, con il nostro inviato Sergio Nava. Ciao Sergio. Ciao Roberta. Ti stai facendo delle giornate immerse nell'Europa, proprio sei al centro, nel cuore dell'Europa dove si decidono le cose, e dove Renzi è andato, ha passato anche lui la sua due giorni, è stato il suo primo Consiglio europeo. E vogliamo sentire prima una sua dichiarazione e poi Sergio ci racconti un po' com'è andata la giornata. Trovo abbastanza strano la ricostruzione che è stata fatta. Ho letto delle polemiche sui sorrisi tra Barroso e Van Rompuy che riaprono nella ricostruzione naturalmente una ferita aperta per il nostro paese, perché tutti noi sappiamo le polemiche che seguirono ad altre vicende nel passato. Io personalmente ho trovato questa ricostruzione lontana dalla realtà. Se Barroso e Van Rompuy sono contenti, io sono contento per loro e con loro. Il mio obiettivo è far sorridere le famiglie italiane. È fondamentale che l'Italia faccia la propria parte, non perché lo chiede qualcun altro. Io ho detto in alcune sedi che se dobbiamo rimettere a posto il debito pubblico, non rimettiamo a posto il debito pubblico perché lo chiede la signora Merkel, rimettiamo a posto il debito pubblico perché lo chiedono i nostri figli. Io non ho un dovere verso i partner europei, prima di tutto ho il dovere verso i miei figli, i nostri figli, che devono se no pagare le colpe dei padri. Ma vorrei ricordare a tutti voi, a me stesso per primo, che noi siamo l'Italia. E quindi questo atteggiamento subalterno e supino di dire ma sei venuto con il cappello in mano a Bruxelles, ecco, questo atteggiamento io non ce l'avrò mai, per un semplice motivo, perché rispetto tutte le regole del gioco, e rispettando tutte le regole del gioco so che la prima regola del gioco è che un capo del governo si preoccupa di riportare la confidenza, la fiducia tra i cittadini e le istituzioni, quelle italiane e quelle europee. Sergio, sei mica dato col cappello in mano tu lì a Bruxelles, vero? Non ce l'hai il cappello, no, fa caldo no. Tanto. Ovviamente no. Senti, insomma, allora ha detto a proposito di questi sorrisini di ieri che in realtà lui vuol far sorridere le famiglie italiane, quindi che risultati riporterà indietro da questi due giorni al Consiglio europeo? Ma dal punto di vista italiano direi un unico risultato, cioè l'apertura di credito dell'Europa sulle riforme strutturali. Oggi Renzi è stato molto chiaro, ha detto entro luglio, cioè entro il 2 luglio, quando lui sarà al Parlamento europeo a presentare il semestre di presidenza italiano, io voglio arrivare con tutta una serie di riforme fatte, tra cui quella del mercato del lavoro, ma non solo, anche quelle costituzionali e altre ancora che ha messo in cantiere, anche quella fiscale, e che sono poi le riforme, diciamo, anche che insomma sono state chieste per anni all'Italia, i vari governi si sono succeduti, sono state anche rese difficili dalla crisi molto forte che c'è stata, e che quindi l'Europa vuole, esige, pretende all'Italia. Renzi giustamente dice anche lo facciamo per i nostri figli più che per l'Europa, o lo facciamo anche per l'Europa, però resta aperto il grande punto di domanda su quanto l'Italia potrà strappare per quanto riguarda invece i vincoli di bilancio. Alcune riforme costano. Lui ha detto che è disposto ad arrivare al deficit del 3%, ma non è l'unico vincolo, ce ne sono altri. Ieri Renzi ha ignorato un po' il tema, ha fatto un po' spallucce, ha detto ci sarà il documento di economia e finanza che risponderà alle domande a inizio aprile e si vedrà. Quindi diciamo sicuramente apertura di credito per le riforme, ma sui conti non si è capito granché. E a proposito di riforme, sentiamolo anche di questo passaggio che le riguarda. Il punto centrale sono le riforme. E nelle riforme il punto centrale sono i tempi delle riforme, anche perché da questo punto di vista, come sapete, l'accelerazione che abbiamo dato è un'accelerazione oggettiva, resa plastica e evidente dai provvedimenti che sono in corso di discussione anche in questo momento all'interno del nostro Parlamento e che vedranno entro il mese di marzo la presentazione del testo di legge sulla revisione costituzionale del titolo V del Senato della Repubblica, del CNEL, dopo la fase di consultazione che stiamo avendo e dopo gli approfondimenti politici che verranno fatti dalle singole forze politiche. Sergio, e poi Squinzi, hai sentito che cosa ha detto? Che in realtà tutti questi hanno accolto Merkel con baci e abbracci, era molto austera, molto seria lì a cena, ha ribadito che gli accordi vanno rispettati. Tu hai avuto eco di queste cose? Ma che Angela Merkel chieda e dica questo è chiaro, ma lo stesso Renzi, bisogna dire, quando è andato a Berlino lunedì a trovarla, di fatto è stato molto allineato ad Angela Merkel sul rispetto dei vincoli. Poi chiaramente è tornato in Italia. Ha detto che era anacronistico il 3%. Che si poteva salire fino al 3% per poter fare riforme o comunque rilanciare la crescita. Diciamo che Renzi ha un po' giocato anche in questi giorni, a seconda dei palcoscenici, a interpretare vari ruoli. Di certo c'è che lui, se vogliamo, la mia personale interpretazione è che lui, davanti a un'Europa che cambierà molto profondamente nei prossimi mesi, ci sarà una nuova Commissione, un nuovo Parlamento, cambieranno anche gli equilibri politici, lui spera di poter avere una Commissione, un Parlamento favorevoli, di poter, insomma, trovare un nuovo equilibrio più favorevole alla crescita, meno rigorista, che in qualche modo obblighi la Germania a rivedere certe regole. È una scommessa, se vogliamo, la può vincere, la può perdere, lo capiremo solamente nei prossimi mesi. Ah, pensavo che citassi Battisti, lo capiremo solo vivendo, ma effettivamente nei prossimi mesi. Poi lui ha dato questa scadenza del 2 luglio, lui continua a dare delle scadenze, quindi poi deve stare molto attento a rispettarle. A proposito invece del commissario straordinario Cottarelli, della sua spending review, sentiamo che cosa ha detto. Io credo che il lavoro di Cottarelli sia un buon punto di partenza. Su alcune cose non sono molto convinto, cioè l'idea di andare a chiedere a pensionati che guadagnano il giusto un contributo mi sembra un errore. Se lei mi dice la pensione d'oro di chi guadagna 200.000 euro avendole magari prese con il retributivo, posso capire, ma se immaginiamo un intervento a pioggia sulle pensioni, io ho detto che non sono d'accordo e che di conseguenza non interverremo. Mi sento di poter dire che gli 80 euro che daremo ai lavoratori non li andiamo a prendere dai pensionati e neanche dai disabili. Quindi un po' frenato, un po' tirato le redini a Cottarelli su questo, Sergio. Diciamo che Matteo Renzi ha una tipo di comunicazione che è molto rivolto alla gente, e questo sta emergendo molto in queste settimane, cioè lui a volte si ha anche quasi l'impressione che, ieri è stato molto chiaro anche in questo, che quasi voglia bypassare i giornalisti e le loro domande e voglia parlare direttamente alla gente e parlare anche da uomo della strada, quindi fa discorsi anche di buon senso, questo è un discorso di buon senso, lui dice se dobbiamo attaccare le pensioni, se dobbiamo incidere su certe pensioni andiamo a incidere su quelle d'oro, su quelle che sono state insomma guadagnate in qualche modo con sistemi non esattamente equi come sistema retributivo, quello contributivo è sicuramente più equo, e non andiamo a intaccare i pensionati che già fanno fatica a arrivare alla fine del mese. Però questo fa anche parte del modo di comunicare di Matteo Renzi, un modo di comunicare che parla, che cerca quasi di saltare l'intermediazione giornalistica e va direttamente alla gente. In questo bisogna dire che è molto bravo a lanciare i messaggi. E un ultimo messaggio questo che lanciamo e che ha lanciato Renzi in realtà, no? Che ha aperto un po' di polemiche oggi, ho visto tanti messaggi sia sulla pagina Facebook di Fettonote sia attraverso gli sms, a proposito dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Moretti, che ha detto se mi tagliano lo stipendio da 850.000 euro l'anno me ne vado. Sentiamo Renzi che credo che l'abbia rassicurato in questo passaggio. Confermo l'intervento sugli stipendi dei dirigenti pubblici e sono convinto che quando Mauro Moretti vedrà la ratio dell'intervento sarà d'accordo con me, poi anche perché credo che sia un punto che affronteremo con grande saggezza e intelligenza, ci sono tanti sacche di spreco dentro la pubblica amministrazione e io non intendo rinunciare a questa battaglia. E questo a proposito di spending review, Sergio Naso, chiudiamo in questo modo, ti lasciamo tranquillo la tua cena a Bruxelles, la tua cena europea, eh? Grazie. Ciao Sergio. A presto, ciao, ciao Roberta, ciao agli ascoltatori. Ciao. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. E proviamo a sentire, mi pare che stia cantando Crozza, giusto per alleggerirci un po', Crozza del Paese delle Meraviglie, sulla 7. Allora, cosa dice? No, ho smesso di cantare. Ciao Andre, no, curati, a parte gli scherzi, curati. Dove eravamo rimasti? Sì, no, dopo il Papa, abbiamo visto il Papa. Quindi il Papa, che ormai non se lo fila più nessuno perché tutti sono concentrati su Renzi, giusto? Renzi ha offuscato tutti, anche il Papa. Da un mese tutti i giornali non parlano che di lui. Se domani l'umanità sbarcasse su Marte, il titolo sarebbe Primo uomo su Marte, ma non è Renzi. Vedremo domani i giornali se riporteranno questa notizia, però il Papa oggi ha riguadagnato invece una posizione di primo piano. Prendiamo una pausa di pubblicità, tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E ve le racconto sempre io, Roberta Giordano, le notizie in pochi secondi adesso. Sì, dopo voglio leggere qualcuno dei vostri messaggi. Allora partiamo naturalmente dal vertice di Bruxelles che si è chiuso. Renzi dice grandi riforme, faremo con l'Europa né conflitti né sudditanza e stop al commissario Cottarelli sulle pensioni. Intanto Squinzi, presidente di Confindustria, dice con cancelliera Merkel è stata dura. Moretti, gli stipendi dei manager, taglia il mio stipendio di 850.000 euro, dice me ne vado, ma Renzi dice lo convincerò. L'ultima sfida di Erdogan, il presidente, il primo ministro turco in Turchia, ha bloccato Twitter per fermare la diffusione di documenti che lo riguardavano. L'Unione Europea abbraccia Kiev, Putin va avanti e snobba le sanzioni ONU. Inchiesta sulle infrastrutture lombarde, il GIP inchioda la regione, dice sapevano i vertici, Maroni chiede chiarezza. Il Papa incontra le vittime, i familiari delle vittime della mafia, in chiesa a Roma più di 900 persone e dice e chiede ai mafiosi di convertirsi. Calcio, quarti di Europa League, il 3 aprile la Juventus in trasferta a Lione. E quindi lo avete sentito, l'avete visto in questi giorni, ha fatto un certo clamore questa inchiesta che si è abbattuta sulla Lombardia, sulla regione Lombardia, sui vertici. Adesso cerchiamo anche di capire se sui vertici di qualche tempo fa o anche di ora, con Sara Monaci, che saluto. Ciao Sara. Sì, buonasera. Del Sole 24 Ore. Aiutaci un po' a capire. Allora, l'inchiesta su infrastrutture lombarde è partita, il colosso regionale infrastrutture lombarde degli appalti, varato al tempo in cui era presidente della regione Lombardia Roberto Formigoni. È una società per azioni completamente controllata dalla regione Lombardia, con dei compiti definiti che includono non solo la valorizzazione del patrimonio immobiliare della regione, ma anche l'ideazione di start-up, l'acceleramento della realizzazione di nuovi progetti infrastrutturali. Insomma, fra i progetti ci sono stati per esempio la costruzione e il collaudo del nuovo maestoso palazzo della regione, di cui gestisce anche alcuni spazi, il restauro della Villa Reale a Monza, ma anche le opere di edilizia sanitaria, quindi nuove strutture ospedaliere. Raccontaci un po', Sara, questa complicata faccenda. Sì, come hai ricordato, è una grandissima partecipata, perché non è soltanto una partecipata qualsiasi, è la quarta stazione appaltante italiana. È caratterizzata proprio da questa capacità di appaltare grandi strutture, principalmente strade e ospedali in Lombardia, ma avevano anche mire di espansione in altre regioni. Ricordo che è anche legata all'Expo, è questo che fa anche da cassa di risonanza per il clamore mediatico di questa indagine, perché infrastrutture lombarde, lo ricordo, ha anche la direzione dei lavori dell'Expo, ha il capo cantiere che era collegato all'Expo. Ecco, quindi in questo momento diciamo Expo non ha un capo cantiere, perché l'indagato si è dovuto dimettere, ma è anche la stazione appaltante di una strada connessa all'evento, la Molino Dorino, e si occupa anche di varie altre cose. Comunque diciamo gli incastri con Expo sono abbastanza visibili, per esempio uno degli indagati è il direttore, la direttrice generale di Arexpo, che è la società proprietaria dell'area e che si dovrà occupare della futura riqualificazione. Comunque ecco, si sta intrecciando anche con l'evento universale, che dovrebbe essere, lo ricordo, un po' anche un trampolino di rilancio dell'economia italiana e sicuramente di quella lombarda. Quindi è anche una complicata vicenda per questo. È un'inchiesta che mette in luce un sistema di appalti truccati, frazionati per renderli più piccoli e quindi aggirare l'obbligo delle gare pubbliche, date in modo arbitrario a una serie di consulenti che secondo gli inquirenti rappresentano, sono all'interno di un giro di amicizie e di consulenti e di imprese vicine al sistema formigoniano, diciamo così, passatemi il termine improprio. E sono tutte vicende che riguardano il periodo che vanno dal 2008 al 2012. Oggi si è fatto un calcolo, grosso modo, la truffa ammonterebbe a 224 milioni, ovvero 224 milioni di appalti dati in modo arbitrario e secondo quella che gli inquirenti definiscono i metodi di una vera e propria associazione a delinquere. Per il momento ci sono 8 persone finite in custodia cautelare. Tra cui Antonio Rognoni, esatto. No? Che è direttore generale dimissionario di quella società. Sì, dimissionario che però continuava ufficiosamente a esercitare il ruolo rimanendo in regione fino a maggio. Aveva già dato le dimissioni. Ma però sarebbe rimasto fino a maggio. Diciamo sarebbe rimasto. Poi ci sono altre persone indagate, insomma il calcolo ad oggi sono 17 persone tra 8 finite in custodia cautelare, tra cui appunto Rognoni e Perez in carcere, gli altri domiciliari e gli altri indagati, ma interdetti dalle funzioni, anche quelle legate all'Expo, perché poi ricordo la vicenda si sta complicando perché tra i consulenti di infrastrutture ci sarebbero 2 avvocati che farebbero anche da supporto legale per gli appalti, per alcuni appalti di Expo, Magri e Leo. Quindi la vicenda sta diventando anche più grande. Lo stesso commissario unico di sala stamattina ha avuto l'esigenza di andare subito in prefettura a chiarire la questione, perché al di là dell'inchiesta si potrebbero creare anche, anzi probabilmente accadrà, dei rallentamenti ai cantieri e un vertice straordinario tra Pisapia, Maroni e Sala ha messo in luce qual è la questione. Si dovranno anche molto semplicemente ritrovare subito quei ruoli che sono stati sospesi dall'inchiesta, quindi non c'è soltanto l'inchiesta, c'è anche l'urgenza di trovare chi sostituisce dei queste sostituti. Figure. Sara Monaci, ma tra l'altro una delle cose più gravi che è emersa dall'inchiesta è che dice il GIP, il giudice per indagini preliminari, la piena consapevolezza c'era di tutte le parti in causa di agire in un ambito di diffusa illegalità, compresi i vertici della regione Lombardia. Chi si intende per vertici? Allora, rimane sfumata. In questa inchiesta non si cita mai direttamente, se non una sola volta, ma facendo riferimento ad una telefonata di Formigoni. Sappiamo che però è lì un po' che probabilmente si va a parare, o quantomeno per vertici si intende gli ultimi 20 anni di consolidata amministrazione di un'area politica, quindi diciamo il centrodestra per quanto riguarda la fazione politica, ma in particolare quello che viene definito, diciamo, il sistema di imprese che fanno riferimento a Comunione e Liberazione, alla Compagnia delle Opere, anche perché alcuni nomi che vengono evidenziati in questa inchiesta emergono anche in altre inchieste, come quella del San Raffaele, che ricorderete inchiodano proprio direttamente Roberto Formigoni con l'accusa di truffa e di associazione a delinquere, e anche per la Maugeri, cioè l'inchiesta è fondi distratti arbitrariamente dalla regione perché venissero dati alle cliniche private, ma la questione che era fondamentale è che Formigoni avrebbe attraverso una serie di favori incassato tangenti proprie e improprie, come i famosi viaggi di cui abbiamo visto le fotografie, e che quindi sarebbero l'oggetto della tangente, calcolato per, mi sembra di ricordare, circa 6 milioni. Quindi diciamo il nome per esempio di Daccò, il faccendiere finito anche lui in carcere per questa vicenda e già condannato per la vicenda del San Raffaele, emerge un nome che torna anche in questa inchiesta. Le consulenze sarebbero state date anche per volontà di Daccò alle sue figlie, quindi emergono dei nomi, oppure il nome di alcuni consulenti come come ad esempio il capo De Donno, che era il capo della legalità, un ex ROS dei Carabinieri scelto proprio da Formigoni per l'Expo. Quindi esiste un sistema di amicizie che diciamo non rivelano mai direttamente il nome di Formigoni, ma che girano, che ruotano attorno a questo nome fino a questa esplicita dichiarazione dell'ordinanza del GIP. Ma dire una cosa, i vertici sapevano, ma Sara Monaci, quindi Maroni, attuale presidente della Regione Lombardia, che ha chiesto chiarezza, sarebbe fuori da questa inchiesta? Sì, lo è fuori, perché la truffa, il sistema di truffe che sta venendo a galla riguarderebbe gli anni che vanno dal 2008 al 2012, dicevi. Con qualche punta e qualche sfogo diciamo tecnico nel 2013, però non viene chiamata in causa l'amministrazione Maroni e nemmeno i vertici che Maroni ha scelto, ricordo, per infrastrutture. Infatti c'è un presidente nominato da Maroni per infrastrutture lombarde, arrivato da nemmeno un anno, e che non è stato minimamente toccato, toccato. Senti, comunque al momento si tratta di un'inchiesta senza ancora rinvio a giudizio, bisognerà aspettare ulteriori sviluppi, sì, naturalmente. Sì, esatto. Grazie Sara Monaci. Prego. È stata molto chiara. Ciao Sara. Ciao. Buon lavoro a Sara Monaci e buon viaggio a chi sta viaggiando, così aggiorniamo per chi viaggia su strade e autostrade, e poi torniamo con altri argomenti. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. In breve, vertice a Bruxelles, nessuna sudditanza in Europa, dice Renzi dopo il Consiglio europeo, ma Squinzi sfata il clima idilliaco con la Germania, dice con la Merkel non sono stati baci e abbracci. L'inchiesta su infrastrutture lombarde, avete appena sentito, il GIP accusa i vertici della regione Lombardia, sapevano della diffusa illegalità nel colosso regionale degli appalti. Il Papa ha incontrato oggi in una chiesa romana, San Gregorio VII, i familiari delle vittime della mafia e ha detto ai mafiosi convertitevi. Per quanto riguarda la Turchia, sono state decine le condanne arrivate da tutto il mondo dopo il blocco di Twitter deciso dal governo turco. E per il calcio, quarti di Europa League, il 3 aprile la Juventus in trasferta a Lione. Ed eccoci arrivati al punto di, diceva prima Crozza, che Renzi se ne parla talmente tanto che offusca anche l'immagine del Papa, ma intanto anche ieri era primo in classifica nella rivista delle persone più influenti al mondo, della rivista Fortune americana, e adesso oggi è tornato con questo gesto molto particolare di voler incontrare in una chiesa romana i familiari delle vittime della mafia. Ha abbracciato Don Ciotti, il famoso prete fondatore dell'associazione Libera che lotta appunto contro la criminalità organizzata. Saluto Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore. Ciao Carlo. Sì, ciao a te, buonasera a tutti. È proprio senza precedenti questo incontro che lui ha fatto e anche i modi in cui lo ha gestito? Sì, certo, con queste modalità in una chiesa con Don Ciotti. Il 21 marzo di ogni anno Libera fa questa cerimonia ricordando i nomi delle vittime della mafia, e quest'anno non era mai accaduto che venissero letti tutte queste centinaia di nomi ad uno a uno davanti al Papa, il Papa ascoltasse. È stata molto lunga ma anche molto emozionante questo tratto della cerimonia in chiesa, dove ogni persona leggeva una ventina di nomi, tra cui l'ultimo è stato il giudice Caselli, che ha fatto anche, diciamo, ha ricordato anche le vittime della Lupara Bianca, cioè le vittime senza nome. Ricordiamoci, quasi tutte le vittime della mafia, il 70% delle vittime della mafia non si sa perché sono state ammazzate. Stiamo parlando di 15.000 familiari colpiti da questo fenomeno. In chiesa ce n'erano dalle 7 alle 800 e il Papa li ha salutati molti. È stato veramente un gesto straordinario, soprattutto per il nostro paese. Sappiamo in Italia quanto il tema della mafia sia sentito, e quindi è un gesto naturalmente planetario, ma soprattutto riguarda l'Italia e alla lotta che in Italia ormai, diciamo, è molto sentita anche dai laici, ma anche dal mondo cattolico, straordinariamente impegnato, con molti preti in prima linea. Senti, a proposito di preti in prima linea, appunto c'era Don Ciotti, c'è stato questo bel abbraccio che riportavano alcune immagini sui siti, e sentiamo alcune delle cose che ha detto al Papa. Abbiamo trovato anche un fratello, fratello Francesco. Grazie. Grazie di averci accolto. È un momento che abbiamo atteso e desiderato tanto. Le persone che sono qui hanno storie e riferimenti diversi, ma sono accomunate dal bisogno di verità e di giustizia, un bisogno che per molti è ancora vivo. Sono solo una rappresentanza, per quanto numerosa, dei familiari delle vittime delle mafie, che sono tanti, tanti, tanti, tanti di più. Sono tutte vittime innocenti e tutte vogliamo ricordare il nome. E fra poco questo interminabile lungo elenco che graffia dentro le nostre... Questo era Don Ciotti, Carlo Marroni, che ha aggiunto fra le altre cose: in passato, dice, purtroppo accade ancora oggi, non sempre la Chiesa ha prestato attenzione a un problema dai grandi costi umani e sociali, silenzi, resistenze, parole di circostanza, ma per fortuna poi anche tanta positività, ha citato Giovanni Paolo II nella Valle dei Templi di Agrigento, poi Benedetto XVI a Palermo e naturalmente Papa Francesco oggi. Sì, due facce, spesso la Chiesa, soprattutto nel passato, era... insomma, larghe fasce, soprattutto delle gerarchie più alte, se non per dire compiacente, sicuramente silenziosa, questo lo sappiamo, però fa risaltare anche di più un po' il cambio di passo che oggettivamente c'è stato. Oggi se un prete o un vescovo, diciamo così, non si comporta forse come è giusto che sia, c'è un forte controllo sociale, cosa che un tempo non c'era. Poi ricordiamo le parole del Papa di oggi nella Chiesa, di cui tu dicevi, ha detto ai mafiosi, rivolgendosi a questo orrore senza volto che sono i mafiosi: il vostro potere insanguinato, convertitevi, ricordando le parole del 93, come giustamente dicevi, di Giovanni Paolo II, quando disse: verrà un giorno il giudizio di Dio, quando disse nella Valle dei Templi, quello è forse uno dei punti più importanti di quel pontificato. Naturalmente Bergoglio in questo è vicinissimo, cioè, voglio dire, tutta la cerimonia di oggi, quando si sono abbracciati e tenuti per mano con Don Ciotti, possiamo dire anche tutta la forza evocativa di questo pontificato, cioè non, diciamo, Don Ciotti è il lato di base della Chiesa, di base di quello che Bergoglio rappresenta, la Chiesa di vertice, e in questo oggi è stata proprio una rappresentazione plastica di questo pontificato, ecco, possiamo dire. Sentiamo allora proprio un passaggio piuttosto emozionante, anche per le sue pause, il modo di comunicare, la solennità di Papa Bergoglio, insieme alla semplicità, a proposito appunto del convertitevi. Sento che non posso finire senza dire una parola ai grandi assenti oggi, ai protagonisti assenti, agli uomini e alle donne mafiosi. Per favore, cambiate di vita, convertitevi, fermatevi di fare il male. Ecco, poi naturalmente lunghissimo applauso, Carlo Marroni. Insomma, è stato un momento sicuramente molto, molto particolare. Era un evento atteso, però posso dire si è rivelato più forte di quanto in qualche modo si pensasse alla vigilia, non che, perché in effetti il Papa, non so, Bergoglio è uso dire cose veramente toccanti, però diciamo che forse questo è un evento che in questo anno di pontificato io forse ascrivo tra gli eventi principali, insomma, sicuramente in questo c'è tutto Bergoglio, diciamo, non è solamente l'abbraccio per bambini o i poveri, cioè lui quando parla di periferie, che poi quelle che frequentava Buenos Aires, dove la malavita spadroneggia, e lui la sfidava andando da solo in autobus nei barrios di Buenos Aires, ecco, lui questo mondo lo conosce, l'ho conosciuto da prete, da prete missionario, perché poi i gesuiti, come tanti altri, sono molto missionari, e quindi lo ritrova oggi con Don Ciotti, con il ricordo di Don Puglisi e Don Diana, i due preti, tanti quasi ormai nella loro lotta, e quindi la Chiesa deve riconoscere l'Italia. Grazie Carlo Marroni. Grazie a voi. Grazie, ciao Carlo. E adesso invece volevo leggere velocissimamente, prima di sentire che tempo farà con il nostro colonnello Giuliacci, alcuni dei vostri tanti messaggi che sono arrivati. Dice Vittorio, a proposito del stipendio di super manager e anche di Moretti: io legherei il suo stipendio al grado di soddisfazione degli utenti delle Ferrovie dello Stato, questo è un vero parametro per valutare il rendimento. Marco: se si fosse in un mondo logico, i grandi dirigenti statali dovrebbero essere pagati con un fisso relativamente basso e con una parte provvigionale proporzionata ai risultati ottenuti dall'azienda diretta. Poi Claudio scrive: vediamo il potere rottamatore di Renzi quanto è forte anche in questo caso. E poi molti altri messaggi, ma adesso il messaggio ce lo deve dare il colonnello Giuliacci. Colonnello, forse ci ha ripensato la primavera ci ha ripensato. Arriva l'inverno perché non era ancora arrivato e quindi con ritardo, ma arriva, perché tra domani e lunedì avremo un assaggio veramente d'inverno con un mixing di pioggia, temporali, neve e freddo. Basta così, sì. Allora, vediamo. Le pioverà domani al nord Toscano, Umbria, Lazio, domenica al centro-nord, lunedì su tutta l'Italia tranne la regione di nord-ovest. Temporali a sciame, diciamo, lunedì su tutto il centro-sud e anche sulle regioni di nord-est. Neve non solo sulle Alpi domani, dopodomani, ma addirittura lunedì su tutte le regioni appenniniche, persino sulla Calabria. E farà freddo ovviamente, perché le temperature rispetto a lunedì passato, lunedì prossimo, saranno, diciamo, sotto di 10-12 gradi rispetto, ripeto, a lunedì passato. Ossia, insomma, tradotto in parole povere, farà freddo lunedì. Ecco, quindi copritevi, non dico col cappotto, ma con qualcosa di simile. È uno scandalo, come ti avevo detto all'inizio, la prima era ci ha ripensato. Sembrava quasi proiettata verso l'estate, invece torna indietro. Insomma, non ci sono più. Ho voluto fare rispetto. Grazie, colonnello Giuliacci. Il resto su meteogiuliacci.it. Buon tempo a te, colonnello. Comunque vada, andrà molto bene. Ciao, colonnello. Dico ciao anche a voi, ma nel senso che poi, come sapete, ritorno tra poco per ricordarvi le notizie principali della giornata.